Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, anche noi di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Ci siamo presi una pausa, quella di oggi è una puntata con il meglio di una selezione dei temi trattati nelle ultime settimane. Quanto vale il nome per brand e prodotti? Nel primo degli approfondimenti che vi riproponiamo prendiamo spunto dai casi dei grandi marchi occidentali che cambiano nome sul mercato cinese per esplorare i segreti del naming, il ramo del marketing che si occupa appunto dello studio e della scelta dei nomi dei prodotti e dei brand. Parleremo poi di spot e grandi registi, manifesto o celato dai pudori della settima arte, il rapporto tra firme del cinema e pubblicità è da sempre molto stretto, viaggeremo attraverso i grandi spot d'autore. La borsa della spesa. Noi viviamo, come saprete, signor Gordon, in un'epoca di ideali. E il mio ideale è sempre stato quello di amare qualcuno che si chiamasse Ernest. C'è qualcosa in questo nome che ispira assoluta fiducia. Dal primo momento che Algie mi ha detto che aveva un amico chiamato Ernest, ho capito di essere destinata ad amarvi. Non mi direi che non potresti amarmi se non mi chiamassi Ernest? Però tu ti chiami Ernest. Sì, lo so, certo, ma... Però, tesoro, ti devo dire con franchezza che a me non fa impazzire il nome Ernest. Anzi, io credo che non mi stia affatto bene. Invece ti sta a perfezione. È divino come nome. Ha una musica tutta sua e produce delle vibrazioni. Oscar Wilde, Docet. Quanto pesa l'importanza di chiamarsi in un determinato modo? Per brand e prodotti vale una fortuna, soprattutto sul mercato più in espansione che ci sia, quello cinese. Divertimento gustoso, passi veloci, pulizia superiore. Ecco cosa significano in cinese i nomi dati rispettivamente a Coca-Cola, Reebok e Colgate. Nomi opportunamente modificati e non semplicemente tradotti a livello fonetico in mandarino, altrimenti i risultati sarebbero stati molto meno efficaci. Chi ha sottovalutato l'importanza del nome e del suo significato profondo, in Cina, dove il mercato dei beni di consumo cresce del 13% ogni anno, del 25% se si parla di beni di lusso, ha sfiorato il disastro. È corsa ai ripari Microsoft, che aveva mantenuto il nome Bing al proprio motore di ricerca, ignorando che in mandarino significa virus, cambiandolo così in Ing Bing, cioè a colpo sicuro. Oppure Peugeot, che tradotto significa prostituta, e ora è boom per le società di consulenza che vendono nomi adatti a brand e prodotti che decidono di scavalcare la grande muraglia. Questo dunque è quanto accade in Cina. Da noi invece si assiste alla personalizzazione dei prodotti di massa, la cosiddetta customizzazione, che soprattutto via Facebook offrono gli stessi grandi brand. La possibilità di ricevere cioè a casa i prodotti con il proprio nome stampato sulla confezione, al posto del marchio. Mi piace citare su tutte l'iniziativa di Heinz, la multinazionale dell'alimentare che in Inghilterra con l'operazione Get Well Soup ha offerto la possibilità di inviare a un amico malato una lattina di zuppa personalizzata. Nomi su misura dunque tra Oriente e Occidente. Quanto conta ancora il naming in pubblicità e nel marketing? Dove puntare per non sbagliare? Lo abbiamo chiesto a Chiara Sozzi Pomati, direttore creativo dell'agenzia Future Brand. Il naming è sicuramente importantissimo. Il problema è che con la globalizzazione il segno forse diventa ancora più importante di quello che in realtà non sia il naming. Pensando a popolazioni intere che possono non essere in grado di leggere un nome e di conseguenza un brand, bisognerebbe andare sempre di più verso un linguaggio visivo e universale. Il futuro sarà più nel segno, certamente. Non vorrei fare i soliti esempi di Apple e Nike, ma sicuramente loro hanno individuato la strada più corretta in un mondo che va sempre di più verso una globalizzazione. Noi